24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Alle 8, 16 minuti e 30 secondi inizia la terza parte di 24 Mattino di questo venerdì 3 aprile. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno da Simone Spezia e buongiorno Maria Latella. Buongiorno, buongiorno anche da parte mia a tutti. Siamo arrivati a un fine settimana, ma la cosa diversa è che anche i fine settimana sono uguali al lunedì, sì, al martedì, per chi sta in casa. Abbastanza simili. Comunque 349-238-6666 per gli sms, per i messaggi su WhatsApp, anche audio, sì, naturalmente le vostre voci le vogliamo sentire, anche all'800-24-00-24. Parleremo un po' di scuola stamattina e anche di questioni economiche, lo dicevamo, dei piani per il governo, anche per la riapertura, il quando si riparte, che resta un tema, no, sotto traccia, ma resta Maria, ed no? È il tema col quale oggi apre Le Figaro, il quotidiano francese di cui vi do la prima pagina tutte le mattine. Si interroga appunto quali scenari per uscire dal confinement, loro lo chiamano così, insomma lo stare a casa, e anche qui prevedono una ripresa a tappe. Anche qui prevedono che alcune grandi aziende possano riaprire nella seconda metà di aprile, ma insomma anche qui il governo si sta interrogando su come lentamente, progressivamente, almeno in parte, tornare alla vita di prima, mentre la Gran Bretagna è un passo indietro, e lo fa notare il Guardian, perché dice che Downing Street ammette errori sul fatto che i test per il coronavirus sono cominciati molto tardi, insomma ammette ritardi nella presa di coscienza della gravità della cosa. Quindi Francia, che è quasi quasi a livello di dibattito nel quale siamo già noi, che avevamo cominciato prima purtroppo con l'epidemia, e Gran Bretagna, che invece si sta ritrovando con una serie di problemi apparentemente molto significativi. Molto, molto complessi. Senti, nel frattempo, Maria, la politica ha ricominciato a discutere, a litigare all'ombra del coronavirus, insomma qualcosa ci si legge dietro in tutto questo, in questo scontro tra il presidente Fontana e lo Stato, che risponde a Fontana per bocca del ministro Boccia, e poi insomma si ragiona sulle responsabilità, su quello che doveva fare lo Stato, quello che dovevano fare le regioni, si riragiona su una centralizzazione della sanità. Vedo che insomma la rilassatezza, come diciamo con Paolo Mieli prima, no, una certa rilassatezza alla quale i politici sono indotti da dei dati parzialmente, molto parzialmente positivi, sta spingendo un po' troppo avanti, forse. Ma sì, un po' troppo avanti di sicuro, anche perché rilassarci non è proprio il caso. Io capisco le ragioni politiche che portano a, diciamola tutta, a sgomitare pur di avere un titolo su un giornale o un'intervista, perché c'è bisogno di visibilità. Si dice anche che i più, diciamo, attivi in questo momento siano anche alcune figure locali, di amministratori locali in Lombardia, perché magari pensano di mettersi in luce su una corsa che sarà più avanti, leadership del Partito Democratico. Però mi sembra che sia tutto un po' precoce. Io capisco che la politica induca a guardare avanti, perché ogni politico pensa allo step successivo della propria carriera, però i morti continuano ad aumentare. È vero che ci sono segnali incoraggianti sul numero dei contagi, ma è anche vero che molti scienziati ricordano come il coronavirus potrebbe, diciamo, immergersi durante l'estate e rispuntare in autunno. Dunque, prima massima di ritornare alle belle care polemiche, perché sì, così poi uno pensa magari mi metto in luce e tra qualche mese mi fanno segretario del partito, eccetera, eccetera. Ecco, calmi. Tutti calmi, posto che a un certo punto un ragionamento sulle responsabilità di quello che è successo andrà fatto, e su questo non c'è il il minimo dubbio. Carla Ruocco, buongiorno, del Movimento 5 Stelle, buongiorno. Presidente della Commissione d'inchiesta sulle banche, che coinvolgeremo però anche su un altro tema, che è quello della scuola e dell'istruzione. Maria, vai. Buongiorno Carla Ruocco, io ammetto, sono rimasta colpita dalle sue dichiarazioni di mamma, da più che da Presidente della Commissione Banche, da mamma, perché lei due giorni fa ha detto: interroghiamoci sul fatto che questi ragazzi che non vanno a scuola da settimane possano rimanere lontani dalla scuola, dall'apprendimento e anche dal fatto di essere insieme in una classe con un insegnante in carne ed ossa per mesi. Le dico come la penso, penso che in questo caso forse giornalista e intervistata non saranno lontani, però io penso che gli insegnanti stanno facendo davvero quello che possono, ma di fronte alla generosità e all'abnegazione di medici, infermieri che da settimane non si fermano un attimo, ebbene anche gli insegnanti potrebbero dare un segnale di consapevolezza di essere di fronte a quello che Confindustria dice essere il più grande danno economico che l'Italia abbia subito dagli anni 60 in poi. Il segnale che si potrebbe chiedere agli insegnanti è di tornare in classe e lavorare fino a quando le condizioni saranno possibili, fino a metà luglio almeno, un segnale di serietà da dare anche ai ragazzi, tenuto anche conto del fatto che molte aziende per esempio rimarranno aperte anche ad agosto, lo ha annunciato Luxottica, ci stanno pensando intanto, e i figli di operai che non hanno, come dire, babysitter a casa o comunque hanno meno mezzi per fare magari corsi di inglese all'estero, ecco, a questi ragazzi bisognerebbe comunque dare una risposta, anche perché sono il nostro capitale umano, e se cresciamo una generazione, diciamo, più vulnerabile culturalmente, la pagheremo ancora una volta in futuro. Questo è il mio punto di vista. Le chiedo, la politica secondo lei che cosa può fare? E soprattutto la mamma Carla Ruocco come la pensa? Sì. Innanzitutto sì, buongiorno a tutti. Io da Presidente della Commissione Banche tengo a precisare che appunto darò una risposta da cittadina, da madre, quindi perché la mia attività, poi ne parleremo, è focalizzata e concentrata sul settore bancario e su tutti i provvedimenti ad esso connessi. Detto questo, io credo che questo terribile momento sicuramente mette in luce un fatto fondamentale: quanto sia importante la cultura, l'istruzione e la formazione, perché se c'è, come ci sarà sicuramente, qualcuno che salverà l'umanità in questo momento, come stanno già facendo all'interno degli ospedali con grande spirito eroico il personale sanitario, medici, infermieri e tutti, sarà proprio chi si è impegnato, ha studiato e chi ha avuto la fortuna di avere una formazione che adesso può e deve mettere a disposizione degli altri. E la scuola è la base di questa formazione. Questo non va dimenticato. Quindi il mio punto di vista è che al di là del fatto che anche all'interno ovviamente questo sistema sicuramente della didattica a distanza è un mezzo valido per una situazione emergenziale, non vorrei che si trasformasse nella panacea, perché la scuola, la formazione relazionale, culturale, di confronto e anche lo sviluppo dell'intelligenza creativa è tutt'altro che stare davanti ad una lezione online. I ragazzi in fase di formazione hanno bisogno di confronto. Un altro aspetto è che i professori stanno facendo uno sforzo immane per inserirsi appunto nel meccanismo della didattica a distanza, che va sicuramente aiutato e implementato, però c'è un problema appunto: da una parte sicuramente non arriva, nonostante anche gli sforzi del Ministero, a tutti nello stesso modo, ci sono ragazzi più avvantaggiati e ragazzi meno avvantaggiati, dove le case magari sono più piccole, le famiglie purtroppo non sono più in difficoltà, i genitori devono uscire la mattina e tornare la sera perché servono il paese, servono gli altri cittadini, e bisogna pensare a quelli. Quindi il mio intervento sicuramente era nello spirito di soprattutto solidarietà nei confronti dei ragazzi meno avvantaggiati, e di conseguenza un allungamento dell'anno scolastico per dare la possibilità anche ai ragazzi, qualora la comunità scientifica che Socet, ovviamente in questo momento in particolare, lo ritenesse possibile solo in quel momento dare un sostegno da parte dell'istituzione scolastica delle famiglie che a giugno si troveranno in estrema difficoltà e contemporaneamente puntare a riallineare, secondo anche quello che insomma ecco la didattica a tutto tondo, i ragazzi tra di loro, fosse anche per fare in modo che quelli che sono riusciti a seguire con maggior profitto le lezioni a distanza possano mettere a disposizione degli altri compagni di classe ecco un momento anche di solidarietà tra di loro e condividere l'esperienza di questo periodo per qualche settimana. Sì. Questo aiuterebbe per riassumere, quello che crede è che i ragazzi debbano essere mandati a scuola fino a luglio, inizi luglio. Cosa immagina, allora, cosa pensa? Io non mi esprimo sulle tempistiche, ma sicuramente un paio di settimane in più, perché qui c'è anche un altro problema, anche magari a giugno inoltrato, più avanti, i primi di luglio, a fine giugno, perché qui c'è un altro problema, ci devono spiegare, purtroppo questo virus non è che ci saluta e se ne va, il virus ad ottobre ritornerà e se si chiudono le scuole ad ottobre c'è un piano poi ulteriore di recupero anche per l'anno prossimo. Ai ragazzi aspetta un autunno difficilissimo, questo qualcuno lo sta pensando, oppure in via emergenziale metteremo le toppe lì dove si presenteranno, perché anche qui bisogna dire che questo virus deve insegnarci purtroppo a prevenire le cose prima che mi scusi Ruoco, ci dica lei che è in maggioranza se qualcuno ci sta pensando oppure no, perché insomma... Vabbè, ripeto che io sicuramente ci staranno pensando, però appunto sarebbe importante che magari si mettesse in campo tutto un piano anche per l'autunno, questo è fondamentale. Ruocco, c'è tra i nostri ascoltatori chi dice: attenzione, mettere insieme in una stessa classe 23-25 alunni potrebbe creare un ritorno, no, del virus. Si potrebbe immaginare un ritorno ai doppi turni come facevo io quando ero alle elementari, siccome eravamo in tanti ci facevano andare a scuola scaglionati, un po' al mattino, un po' al pomeriggio. Qualunque soluzione passerà sempre per il vaglio della comunità scientifica, io questo voglio precisarlo, non sono io a dirlo, qui è tutto assolutamente, anche le modalità di rientro in tutte le strutture chiaramente verranno decise in maniera estremamente scrupolosa, quando e se, speriamo bene. Ne usciremo, dice lei. Senta Ruoco, la voglio portare adesso sui temi suoi, insomma, no? Perché so che avete attivato qualcosa come commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario per venire anche un po' in aiuto ai cittadini. Ci dice cosa state facendo? Sì, allora abbiamo attivato una casella di posta, anzi colgo l'occasione per comunicarla, che la casella è com.banche@camera.it, perché ci siamo resi conto chiaramente che con questo susseguirsi della normativa anche appunto che coinvolge il settore bancario come veicolo di trasmissione della liquidità dalle provvedimenti governativi verso ovviamente le imprese e le famiglie passa quindi per un'interpretazione delle banche, la dialettica con i risparmiatori e ci stanno arrivando purtroppo molte segnalazioni di mancanza ancora di messa a punto di questa normativa, onde consentire sospensione di mutui piuttosto che accesso a finanziamenti per le piccole e medie imprese con credito garantito. Per dare una mano concreta ai cittadini che si recano in banca abbiamo attivato questa casella di posta dove stiamo facendo convergere queste segnalazioni per poi immediatamente interfacciarci con l'ABI, Banca d'Italia e le stesse banche e le dirigenze delle banche per fare in modo che si sblocchino rapidamente le situazioni presentate. Allora, grazie Carla Ruocco per essere stata con noi, Presidente della Commissione d'inchiesta sulle banche del Movimento 5 Stelle. Vedremo se il suo appello da madre sarà accolto. Vediamo, grazie. Buongiorno. Tra un attimo ne parliamo con un sindacalista della scuola. Una pausa. 24 mattino. Buongiorno a Francesco Sinopoli, segretario generale della FLC-CGIL, il sindacato della scuola della CGIL. Buongiorno Sinopoli, benvenuto. Buongiorno. La vede possibile la scuola per tutto giugno, l'apertura della scuola per tutto giugno, ovviamente se la situazione si tranquillizzerà? Dunque, noi pensiamo che se ci sono le condizioni bisognerebbe provare a tornare a scuola, su questo non c'è alcun dubbio. Il punto è che non in tutto il paese è possibile portare avanti il tempo scuola troppo in avanti, questo è ovvio, quindi stiamo cercando di comprendere soprattutto ora quali sono le intenzioni del Ministero, circolano bozze di decreti che fanno riferimento a diverse ipotesi, tra queste ovviamente c'è quella che a scuola non si possa tornare. Mi risponde alla domanda? La risposta è che si può provare a portare avanti la scuola per qualche giorno in più, ma non è detto che ce la si faccia. Allora Sinopoli, mi scusi, noi abbiamo medici e infermieri che non si stanno fermando da settimane. Il paese è economicamente in ginocchio, solo la seconda guerra mondiale ha provocato all'Italia più danni economici del coronavirus. Alcune aziende, Luxottica l'ha già annunciato, apriranno ad agosto. La preparazione dei nostri studenti, secondo i test Invalsi e secondo appunto l'OCSE, era già carente e scricchiolante un anno fa e da molti anni. Lei non crede che il corpo insegnante per primo dovrebbe dare un segnale di consapevolezza del momento storico gravissimo che stiamo attraversando e dare un segnale agli studenti per dire guardate, avete fatto quello che potevate a casa in queste settimane e forse in questi mesi, ora si torna, si fa un punto di quello che avete fatto, ma soprattutto così come i genitori tornano al lavoro, gli studenti tornano in classe. Farà caldo. Ma scusi, lei vuole spiegare a me cosa succede nel paese? Ma lei pensa che sono un sindacalista per sbaglio? No, io voglio capire una parola chiara, mi perdoni, voglio capire da lei se il corpo insegnante è pronto ad assumersi la responsabilità in un momento storico di questa gravità. Mi perdoni, io solo credo una che agli... Non ho capito la polemica. Ma parole chiare non devo darle io sul ritorno in classe. Parole chiare però rappresenta gli insegnanti, potrebbe dire gli insegnanti sono pronti, poi il ministero vedrà. Guardi che mi faccia capire. Gli insegnanti in questo momento sono profondamente coinvolti in questa emergenza e stanno dando il massimo contributo che possono dare. Le assicuro, per quanto noi sappiamo, che c'è un enorme impegno della scuola italiana nel modo in cui era possibile. Adesso se lei pensa che oggi sia significativa una polemica sul fatto che qualche insegnante non voglia tornare in classe a dare un contributo, ecco, a mio avviso siamo davvero fuori strada. Guardi, nessuna io polemica, penso invece, e mi faccia finire polemica. Perché altrimenti mi faccia finire, Maria, facciamolo finire Sinopoli, prego. Altrimenti non mi avrebbe invitato a discutere in una trasmissione radiofonica. Noi stiamo dicendo, ma lo abbiamo detto ben prima che ci fosse il rischio che la scuola non riaprisse, perché noi sappiamo che questo rischio esista per le condizioni epidemiologiche e non perché gli insegnanti non vogliano tornare in classe, che sarebbe stato possibile anche recuperare tempo scuola fuori dai quadri orari ordinari. Ma il punto non è questo. Il punto che oggi, forse voi dovreste saperlo, siamo di fronte a un provvedimento del governo che fa già delle scelte, e cioè se non si rientra in classe il 18 di maggio, allora bisognerà procedere con una valutazione degli studenti che non è quella prevista ordinariamente. Si sta già discutendo di un'altra cosa. Mi perdoni, quindi Sinopoli. Guardi, mi perdoni lei, perché io non sono abituato a fare discussioni di questo tipo gratuite sulla base di una polemica che non esiste. Noi parlo in questo caso della CGIL, ma lei i fatti li porta a me. Io le sto dicendo che come organizzazione sindacale abbiamo fatto proposte precise sulla chiusura dell'anno scolastico. Io sono convinto che bisogna fare un investimento straordinario nel tempo scuola, perché i nostri studenti avranno un debito nei confronti della scuola. Io non penso, così sono chiaro, che in questo momento, nonostante l'impegno straordinario che c'è, noi si possa dire che la scuola esista. C'è una relazione educativa che si porta avanti attraverso la didattica a distanza, ma la scuola è un'altra cosa. La scuola è presenza, la scuola è socialità, la scuola è confronto tra pari. Ecco, noi pensiamo che bisogna fare un ragionamento anche sul tempo scuola nel prossimo anno, perché avremo bisogno di più tempo scuola. Ma guardi che tempo scuola significa anche, e le dico questo con assoluta chiarezza, fare investimenti importanti ora, perché prima di tutto avremo bisogno di docenti in cattedra a settembre e rischiamo di avere 200.000 precari. Preoccupatevi anche di queste cose. Siamo perché tutti d'accordo e l'inizio, mi faccia finire, no, mi perché perdoni, mi ha invitato a parlare, ha detto tutto quello che doveva dire, posso dire anche una cosa per dire che la trasmissione. Guardi, se mi ha invitato mi fa parlare, altrimenti se la fa da sola la trasmissione. Le sto dicendo che serve un investimento nel tempo. Allora. Ok? Sono stato chiaro? Io non capisco bene qual è il senso di questo dibattito. Aggiungo, essendo sindacale come la CGIL, un'organizzazione che rappresenta milioni di persone, molte dei quali, la stragrande maggioranza, sono in cassa integrazione, che affrontiamo ogni giorno l'emergenza della cassa integrazione per i settori privati, perché non rappresentiamo solamente la scuola pubblica. Allora, come le viene in mente in una fase come questa di aprire così una discussione? Allora, Giù i microfoni di tutte e due, per favore. Un attimo. Oh, allora, teniamo un attimo di calma, per favore. Ok? Anche perché tra un attimo abbiamo il viceministro dell'economia e due cosette gliele dobbiamo far dire. Quindi un attimo di calma. Sia Sinopoli che Maria, per gentilezza, teniamo un attimo di calma. Ok? Adesso, Sinopoli, ascoltiamo la domanda di Maria Latella, che sarà breve, che così precisa quello che le deve dire, e lei risponde e chiudiamo qua, per favore, possibilmente con meno polemica, che non ne abbiamo bisogno. Via, su tutte e due. La mia domanda è, siccome il Ministero ovviamente prende le decisioni insieme, consultando spiego, i sindacati informi, della scuola... Il Ministero sta adottando un decreto e stiamo parlando già di un altro contesto. Lei mi sta togliendo la parola. Se vuole fare informazione, si informi, parliamo già di un altro contesto. Parliamo del decreto del Ministero, se ne vuole parlare. Appunto, vi siete consultati col ministero? Guardi, se lei vuole fare informazioni, faccia domande giuste. Abbiamo incontrato la ministra l'altro ieri, sì. Ci ha presentato ha detto di Noi ce li ha presentati, adesso ve lo riconosciamo. E se vuole fare informazione in una trasmissione radiofonica, abbiamo capito che non è correggibile questa discussione. Sì, no, guardi, la domanda era molto... Scusi, che c'è un contenuto, c'è un decreto con dei contenuti, ne volete parlare? Vogliamo sapere che scenari fa? Che succede per gli esami di Stato? Perché c'è già scritto. Se vogliamo discutere di quello che sta accadendo in queste ore... Se invece vogliamo fare degli scenari che non ci sono, sulla base di una polemica che non esiste, le ripeto, allora facciamolo. Posso anche prestarmi, ma mi sembra inutile. Per gli ascoltatori. Lei rigira la frittata. La domanda era se avete fatto insieme al ministro delle conversazioni. Però così no, così no, così no, così no. Scusate, allora Sinopoli, l'accusa di non fare informazione, cioè qua le abbiamo semplicemente fatto una domanda. Se era pensabile. Aspetti, Sinopoli, mi faccia finire, mi fa finire a me per gentilezza adesso. Allora, le abbiamo semplicemente posto una domanda: se era pensabile per il sindacato il prolungamento dell'anno scolastico anche per, se vuole, per recuperare anche una parte di quel tempo scuola del quale lei ci parla. Perfetto, benissimo. Punto. Sì, poteva anche essere pensabile, le ho detto, non ci sono le condizioni per stare in classe nello stesso modo in tutta Italia, ma questo da sempre perché è chiaro che a giugno in Sicilia è un inferno, giugno, è chiaro, sono cose che chiunque. Guardi, le do l'informazione, nella scuola dell'infanzia si va in classe per molto più tempo che nella scuola secondaria, ma questo lo sa chiunque. Cerco di dirle che oggi il tema della discussione purtroppo non può essere più, rischia di non essere questo. Se la domanda era, e davvero, siccome sono talmente lontano dalla polemica che non l'ho colta, ma voi pensate che si possa dare un contributo in più andando avanti nei giorni oltre i quadri ordinari? La risposta era sì. Il punto è che oggi stiamo discutendo di un altro scenario, sì, e cioè di come si chiude l'anno se non si va a scuola oltre una certa data che c'è un decreto del MIUR che indica, certo, e quindi come, sì, si faranno gli esami di Stato. Io infatti pensavo si volesse parlare di questo, come si faranno gli esami di Stato, siete d'accordo che siano semplificati, come si deve fare la valutazione, ci stiamo tutti preoccupando di queste cose. Siete d'accordo che siano semplificati? Mi perdoni, siete d'accordo che siano semplificati? Guardi, io penso che non ci sia alternativa, e penso anche un'altra cosa, che in questo momento pensare di valutare i nostri studenti sulla base dell'esperienza fatta con la didattica a distanza non è possibile, serve una valutazione più comprensiva dell'esperienza, o meglio, serve una valutazione che tenga conto di quello che sta accadendo, quindi sì, serve ovviamente anche una procedura semplificata. Queste sono cose anche abbastanza intuitive, serve ovviamente un esame di Stato che non può contemplare le stesse caratteristiche di prima. Ritengo che siano considerazioni non particolarmente originarie, oppure pensavamo che noi potessimo utilizzare la didattica a distanza per fare le stesse valutazioni di prima, come si è rischiato, perché sono alcuni dei problemi che abbiamo affrontato. E le assicuro, non perché gli insegnanti non fossero o non siano disponibili, ma perché è del tutto chiaro che ci sono talmente tante differenze nell'apprendimento che può avvenire in una casa rispetto a quello che può avvenire in una scuola, che sono dimensioni neanche paragonabili. Le faccio un esempio. È chiaro che chi, e glielo faccio davvero in modo sentito, che chi ha a casa dei genitori che ti possono aiutare a fare i compiti, e queste sono delle grandi differenze del nostro paese, non è solo una differenza, chiamiamola così, di ceto, ma di quanti libri alle spalle, mettiamola così, come sì, famiglia, sì, sarai avvantaggiato, e quella compensazione che la scuola con fatica fa, perché la scuola è un luogo di totalità, non potrà avvenire. Certo, non potrà avvenire. Allora, facciamo una cosa, Sinopoli, la interrompo non peraltro, perché allora, prego, dato che le persone anche calde come lei ci piacciono, torniamo a parlare di scuola magari la settimana prossima, magari tra una decina di giorni, facciamo un punto un po' più rilassato, per così dire, se ci riusciamo, anche su questo, Maria, anche perché ti blocco. L'obiettivo è comune, sì, è comune a tutti, esatto, l'obiettivo sono i ragazzi, diciamocelo chiaramente, Svantaggiati e avvantaggiati tra, giusto così, tra le nuove se lei ci sta, Sinopoli, se non se l'è presa troppo la richiamiamo, no, magari però, ok, no, perfetto, alla prossima. Allora, alla prossima domanda spero di aver risposto. Benissimo. Poi però siamo già in un'altra discussione. Grazie Francesco Sinopoli della CGIL per essere stato con noi. Buona giornata. Antonio Misiani, vice ministro dell'economia. Buongiorno. Buongiorno. Come sta? Buongiorno a voi. Al lavoro. Senta, le sembra praticabile l'ipotesi che viene lanciata, per esempio, dalla piccola industria di Confindustria oggi, di questo grande patto per la liquidità, 3 mesi di mancati ricavi a interessi zero e a 30 anni, e con finanziamenti a 30 anni, liquidità a 30 anni con garanzia integrale dello Stato? Noi stiamo lavorando su una traccia simile, prestiti a interessi sostanzialmente zero che possano arrivare fino al 25% del fatturato, cioè 3 mesi su 12, e che siano di lungo periodo, con percentuali di garanzia statale fino al 90%. Noi abbiamo fatto già uno sforzo importante nel decreto di marzo, attivando garanzie per 350 miliardi di euro di prestiti e finanziamenti alle imprese. Vogliamo rafforzare ulteriormente questo intervento con un provvedimento che sarà emanato nell'immediato futuro, nei prossimi giorni, che dovrebbe attivare ulteriori garanzie per 200 miliardi di euro per le imprese micro, piccole, medie e di più grande dimensione. Perché il tema della liquidità è assolutamente fondamentale per garantire continuità produttiva, e questo l'abbiamo fatto da subito e in misura maggiore rispetto agli altri paesi europei, perché i 350 miliardi già attivati a marzo valgono il 20% del PIL, la media in Europa degli interventi per la liquidità è il 13% del PIL. Garanzia al 100% oppure no? La garanzia al 100% non è attualmente possibile per nessun paese europeo, perché il Temporary Framework Agreement permette di arrivare al 90% e non al 100%, ma arrivare al 100% avrebbe una controindicazione dal punto di vista della leva, dell'effetto leva attivabile attraverso le garanzie statali. Misiani, senta, nell'attesa della decisione che prenderanno i ministri delle finanze a inizio settimana prossima, c'è stata una, io credo, comprensibile reazione italiana quando Commerzbank ha consigliato ai propri clienti, nel senso, abbandonate i BTP italiani, puntate su quelli tedeschi. Lei che risposta si è data rispetto a questa presa di posizione dell'analista di Commerzbank? Ha fatto il suo mestiere, come fanno gli analisti, o insomma la dobbiamo considerare una mossa politica? È una mossa che ha lasciato molta, molta amarezza, ma che non ci porta a demordere nemmeno di un millimetro rispetto allo sforzo che il governo italiano sta facendo, non da solo, perché insieme a noi ci sono tanti paesi europei, grandi e piccoli, per attivare tutti i meccanismi possibili di sforzo condiviso a livello europeo per affrontare le conseguenze economiche dell'emergenza sanitaria. Uno sforzo che sta dando frutti importanti. Vorrei ricordare il piano di acquisti di emergenza della Banca Centrale Europea per 750 miliardi, la sospensione del patto di stabilità e crescita, l'attivazione di un progetto di cassa integrazione europea per 100 miliardi, un pezzo molto importante dei quali arriverà in Italia, la possibilità di utilizzare liberamente le risorse europee, che per l'Italia vuol dire 10-11 miliardi utilizzabili da subito per finanziare gli interventi per l'emergenza economica, e i progetti in discussione a livello europeo, che sono in larga parte condivisi dalle istituzioni europee. Ci sono singoli governi nazionali che sono attaccati a un'idea di sovranismo economico che non ha alcuna ragion d'essere di fronte ad una crisi che è simmetrica, che investe tutti i paesi europei per effetto di un virus che non si blocca le frontiere. Ascolti Misiani, state già ragionando, ovviamente non di riapertura subito, però di una strategia per la riapertura. Insomma, cosa succede dopo il 13 aprile? Qualche grande industria potrà ripartire? Cosa immaginate? Guardi, noi non siamo ancora in condizione di dare date per la riapertura delle attività economiche e produttive attualmente ferme. Abbiamo sempre detto, e lo ha ribadito anche il presidente Conte nei giorni scorsi, che ciò che conta è innanzitutto il parere delle autorità medico-scientifiche. Quando gli scienziati ci diranno che l'epidemia è sotto controllo, che la curva è definitivamente su livelli di stabilizzazione rispetto alla situazione dei giorni scorsi, allora potremo passare a quella che il presidente Conte ha chiamato la fase 2. Certo, la fase 2 va progettata da subito, perché essendo comunque una riapertura graduale e inevitabilmente connessa alla necessità di garantire la massima sicurezza ai lavoratori che torneranno in attività, da subito bisogna iniziare a immaginare chi potrà riaprire e chi invece dovrà rimanere fermo ancora per ragioni di sicurezza, che è lo stesso che è accaduto nei paesi che per primi hanno sperimentato l'epidemia. La Cina ha adottato scelte di riapertura graduale delle attività e di mantenimento di tutta una serie di misure di distanziamento sociale. Lo stesso vale per Hong Kong, per la Corea del Sud, per i paesi dell'Estremo Oriente che per primi hanno sperimentato la durezza dell'epidemia. Senta Misiani, lei proprio qui a 24 mattino, qualche settimana fa, disse ci sarà bisogno di ripensare il piano industriale del paese, e da più parti si sente il bisogno soprattutto di programmare per tempo quelli che saranno i passi successivi da fare nei prossimi mesi. Intanto arrivano dati preoccupanti sulle minori entrate del fisco, circa 2,5 miliardi. Miliardi di euro in meno dovuti ai minori incassi dai caselli autostradali e dalle mancati introiti di lotterie e lotto. Non le chiedo di dirci ora che cosa farete, ma potrebbe essere necessaria una misura straordinaria, non so, pace fiscale oppure una tassa patrimoniale sui patrimoni più ricchi. cominciate a pensare al dopo, perché se arrivano meno introiti al fisco, io non so dove li trovate poi i soldi da dare, oltre a quelli che dovrebbero arrivare appunto dalle decisioni europee, però meno introiti al fisco significa meno soldi da destinare a tutte le spese che sappiamo, a cominciare da quella sanitaria. Guardi, io sono culturalmente contrario a misure straordinarie, a patrimoniali e a soluzioni che vengono evocate come se bastasse la bacchetta magica per risolvere una situazione molto complessa. Credo che inevitabilmente larga parte degli interventi che stiamo adottando dovranno essere finanziati a debito, un debito che dobbiamo cercare di spalmare nel tempo, che dobbiamo cercare di finanziare ai minori tassi di interesse possibile, ed è per questo che è molto importante un'iniziativa europea che abbia dietro la forza dell'economia europea nel rapporto con i mercati finanziari. Io credo che dobbiamo fare uno sforzo molto importante per mobilitare tante risorse ferme nel sistema produttivo per rilanciare le nostre imprese. Guardi, gli italiani hanno 1.400 miliardi di euro fermi sui conti correnti o in liquidità. Noi dobbiamo inventare non patrimoniali, ma strumenti che permettano di convogliare queste risorse verso l'economia reale, verso il sistema produttivo. Cioè farglieli spendere, in sostanza, Misiani. Per farglieli investire nell'economia italiana. 1.400 miliardi fermi che le famiglie in questi anni hanno lasciato sui loro conti correnti perché per prudenza, perché era un paese che psicologicamente era bloccato. Noi dobbiamo rompere questo meccanismo e trovare tutti i canali possibili e immaginabili, adesso nell'emergenza per garantire liquidità, ma poi per rafforzare il nostro sistema produttivo. Guardi, per la nostra economia è molto più utile. E avete già in mente qualcosa, Misiani, in termini di strumenti, dico, eh? Guardi, ne stiamo discutendo, stiamo raccogliendo proposte. Io personalmente credo che anche l'idea di un'emissione di titoli a lunghissimo periodo a tassi di interesse, ma l'idea di un patto con i risparmiatori italiani, un'alleanza tra i risparmiatori, lo Stato e il sistema produttivo, per raccogliere attraverso un'emissione straordinaria risorse da destinare al rilancio e alla ripartenza del paese, questo per esempio possa essere una soluzione interessante da approfondire fino in fondo. Maria? Misiani, senta, le domande di indennità per gli autonomi sono state oltre 1,5 milioni. Il Premier Conte l'ha già detto, ma lo chiedo anche a lei. Le risorse saranno sufficienti per tutti? Ad aprire risorse in più per aumentare questa quota di 600 euro? Noi abbiamo tarato quelle risorse su una platea di 5.300.000 beneficiari. E questo quindi, è una cifra che sì, quindi la risposta. È una risposta rispetto alla sua domanda. La risposta c'è già. Gli autonomi chiedono però di più, Misiani. Dicono, insomma, questa cifra è ai limiti dell'elemosina. È tutto il paese che chiede il massimo sforzo allo Stato, al governo, alle istituzioni pubbliche. E noi stiamo facendo, credo, tutto quello che è necessario. Lo sforzo che abbiamo fatto per il mondo del lavoro autonomo vale 3,5 miliardi di euro. E l'ammontare di risorse più grande mai stanziato per un segmento importante del mondo del lavoro che è sempre stato escluso da qualunque forma di ammortizzatore sociale. Credo che si possa migliorare quella cifra, lo stiamo discutendo in vista del decreto che verrà approvato nei prossimi giorni. Mi lasci dire che al di là di quello che faremo nell'emergenza è giunto il momento di pensare a misure strutturali di welfare per questa categoria di lavoratori, perché noi abbiamo un sistema che protegge il mondo del lavoro dipendente con la cassa integrazione nelle situazioni di emergenza, la NASPI e gli altri ammortizzatori sociali, ma è molto carente invece per il mondo del lavoro autonomo. Naturalmente sono sistemi di tipo assicurativo quelli che vanno immaginati per il futuro, in cui un pezzo è finanziato con la fiscalità generale, un altro pezzo con forme di contribuzione da parte dei diretti interessati. Ma credo che per il futuro noi dobbiamo attrezzarci con un sistema strutturale di emergenza in grado di aiutare pezzi del mondo del lavoro che oggi sono scoperti. La ringrazio, grazie Antonio Misiani, dobbiamo veramente chiudere, Vice Ministro all'Economia. Buon lavoro. Buon lavoro anche a voi. Grazie per essere stato con noi, cara Maria, ci risentiamo lunedì, grande battaglia oggi con Sinopoli, grande battaglia. Ma tornerà. Vi faccio tornare a combattere. Ho avuto un insegnante ospite a Nessuno è Perfetta proprio 2 settimane fa e raccontava della difficoltà di fare il lavoro di insegnante da casa, quindi per carità, tutta la vita al fianco degli insegnanti, però anche legittimo chiedersi studenti, ma proprio senza ombra di dubbio. Allora Maria, lunedì alle 8:20, Carmelo Lauricella in regia, Miriam Lucchetti in assistenza, Giorgio De Luca, Alessandro Marcotulli, Gloria Guerrera in redazione, Margherita Ine, Francesco Ciaraffo i nostri autori. Noi ci risentiamo lunedì alle 6:30, buon fine settimana, ciao. Ciao a tutti.